Letture di Radio 24. Il McKinsey Global Institute ha recentemente inserito l'Italia in un gruppo di economie occidentali nelle quali la maggior parte della popolazione non vede nessuna crescita economica. Fra il 2005 e il 2014, il 97% delle famiglie italiane, infatti, ha visto il proprio reddito scendere o rimanere fermo. Ma l'Italia non è sola, scrive Federico Fubini in un articolo pubblicato sul magazine 7. Per la prima volta da 80 anni, in 25 paesi, 1,5 miliardi di persone non ha migliorato il proprio tenore di vita o lo ha peggiorato. Continua Fubini. È un caso talmente evidente di disfunzione da aver sollevato domande che sembravano improbabili da quando Karl Marx è passato di moda. Il capitalismo può finire? E semmai come? Sembrava una domanda ingenua prima che la formulasse un intellettuale moderato e rispettabile come Wolfgang Strick, ex direttore dell'Istituto Max Planck di Colonia e docente di relazioni industriali all'Università di Wisconsin-Madison negli Stati Uniti. Strick sottolinea una triplice deriva economica dell'Occidente a partire dagli anni Ottanta: il persistente declino dei tassi di crescita, il continuo aumento del debito pubblico e privato e quello parallelo delle diseguaglianze. Anche Marx e vari altri dopo di lui avevano annunciato la fine del capitalismo e sappiamo com'è andata. La principale differenza è che Strick non ha un'ottica ideologica, ma studia un processo di metamorfosi e degrado dell'economia di mercato senza svolte e apparentemente senza una direzione. Finché immaginiamo che la fine del capitalismo sia decisa per decreto, per lasciar spazio a un nuovo sistema provvidenziale, in stile leninista, scrive, non possiamo che considerare il capitalismo stesso eterno. Strick, invece, ha una visione più laica e contemporanea del declino nel quale viviamo. Non possiamo sapere quando e come il capitalismo sparirà e cosa prenderà il suo posto, sostiene. Ciò che conta è che nessuna forza è in azione che possa rovesciare la tendenza al calo della crescita e dell'uguaglianza economica e a favore della stabilità finanziaria. Lo studioso prevede un continuo accumulo di piccole e non tanto piccole disfunzioni, nessuna mortale, ma la gran parte non rimediabili, a maggior ragione quando diventano troppe per poterle affrontare individualmente. Di qui le crisi di legittimità e produttività che in effetti sono aperte. Fin qui Strick. Nei prossimi anni potrebbe seguire Karl Marx nella tradizione nobile di intellettuali interessanti che hanno avuto torto. La sfida, per l'ennesima volta, sarà dimostrarlo. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Federico Fubini «È davvero la fine del capitalismo?» dal magazine 7 del 15 aprile. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Letture di Radio 24. Tra i tanti anniversari importanti che cadono nel 2017, ce n'è uno che è passato quasi inosservato: il centenario dalla scomparsa di Ludwig Zamenhof, l'inventore dell'esperanto. Fu l'unico tentativo di lingua universale che ebbe qualche successo, scrive Diego Marani sulla Stampa, che poi prosegue. Revigas nun Californio per Dio chi ogni estis chi governata da 16 regole senza eccezioni e fondata su un vocabolario di radici latine, germaniche e slave, capace di produrre da sé neologismi comprensibili per tutti i suoi locutori, l'esperanto aveva tutto per diventare la lingua comune dell'Europa intera, dall'Atlantico agli Urali. Non andò così, e malgrado la nobiltà dell'idea e i grandi riconoscimenti di cui godette il suo inventore, l'esperanto non riuscì mai a svilupparsi come lingua internazionale. Il mondo di Zamenhof era l'universo poliglotte e multiculturale dell'Europa centro-orientale, dove si concentrava anche la diaspora ebraica, sui confini degli imperi russo, tedesco e austriaco, che si spostavano senza sosta da una guerra all'altra. In questo contesto culturale, immaginare una lingua che le travalicasse tutte e che non appartenesse né all'una né all'altra potenza dominante era la cosa più naturale del mondo. Il giovane medico Zamenhof chiamò la sua invenzione Lingue Universala e ne pubblicò la grammatica con lo pseudonimo Dr. Esperanto. Dottor Speranza voleva dire, ma i pogrom e la nascente ideologia del nazionalismo lasciavano ben poca speranza a chi, come Zamenhof, rifiutava ogni appartenenza esclusiva, persino la sua, quella ebraica. Le due guerre mondiali, l'Olocausto e i Gulag, spazzarono via la società poliglotta e cosmopolita che avrebbe potuto fare dell'esperanto la propria lingua, per lasciare il posto a nazionalità ben distinte, etnicamente ripulite da ogni allogeno e rinchiuse in confini ermetici. Con la scomparsa del suo mondo, l'esperanto è così morto sul nascere e i moderni sviluppi politici non gli lasciano grandi speranze. Molti sostengono che il fallimento dell'esperanto fu dovuto anche al fatto che è una lingua codice, senza una cultura, in altre parole, senza un'anima, sempre solo lingua seconda, mai lingua di pancia. In verità, l'esperanto una ben ricca cultura ce l'aveva, ed era il miscuglio ebraico-balto-slavo su fondo germanico-prussiano, che si rimescolava fino e oltre i Carpazi, esprimendo una società variegata e complessa, di popoli senza frontiere certe e soprattutto senza un netto sentimento di appartenenza statale. E forse è proprio questo l'elemento che ha condannato l'esperanto, il suo carattere rivoluzionario e antistatuale. Infatti, la prima cosa che l'esperanto nega è lo Stato-nazione che si appropria della lingua, ne fa un elemento identitario e pone la frontiera a sua guardia e limite. Oggi l'Europa potrebbe permettersi una lingua di comunicazione comune, ben diversa dalla lingua unica che non può esistere, e soprattutto una maggiore condivisione delle sue lingue. Ma la crisi che attraversa fa riemergere l'eterna contraddizione tra l'Europa dei popoli e quella delle nazioni. Proprio quella che voleva superare Schuman, quando disse che il progetto europeo doveva unire popoli, non governi. Se l'Europa oggi è costretta alle due velocità, è forse ancora per queste due anime che la caratterizzano. Una, che ha superato il nazionalismo e tende a cancellare le frontiere nella mescolanza. L'altra, che invece non ha ancora esaurito l'esperienza del nazionalismo e dell'esclusività culturale. Difficile negare quale delle due continui a seminare divisione e morte. Basti pensare alle guerre dei Balcani e all'altro fallito esperimento di lingua comune del serbo-croato, spazzato via dalle micro-identità immaginarie di stati grandi come francobolli. Quanto all'esperanto, oggi sicuramente ne sopravvive lo spirito, se non la lingua, ridotta ormai a intellettuale passatempo per pochi appassionati. Ma se lo volessimo, un nuovo esperanto ce l'abbiamo a portata di mano. È l'inglese, che i britannici ci hanno imposto e che ora ci lasciano andandosene. Prendiamocelo dunque e facciamone la lingua condivisa della nuova Europa. Nostro, non britannico, più nessuno a dirci come si pronuncia. Un inglese europeo nato dal miscuglio e dalla contaminazione, come del resto è già diventato. Proprio come l'esperanto. E se il vecchio Zamenhof potesse sentirci parlarlo, sarebbe fiero di noi. Del resto è lui che per primo ce l'ha insegnato. Le lingue non si fermano alle frontiere, non appartengono a stati o governi, ma sono della gente che le parla. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di Diego Marani, Esperanto, l'utopia fallita della lingua europea, dalla Stampa del 14 aprile. L'invasione di migranti ha toccato numeri da record nel fine settimana di Pasqua. Il bel tempo e il mare calmo hanno favorito il servizio di traghettamento dei clandestini dalla Libia, consentendo alle navi militari e a quelle delle ONG di caricare a bordo ben 8.300 passeggeri. Numeri che hanno portato il nostro governo a sospettare che dietro alle partenze ci sia la criminalità organizzata della Libia. Dalle audizioni che si tengono in Senato, scrive Francesco Grignetti sulla Stampa del 20 aprile, emerge come negli ultimi mesi le navi umanitarie abbiano surclassato le flotte ufficiali. Sistemandosi al limite delle acque libiche ed esercitando una ricerca attiva, l'Internazionale della Solidarietà francese, tedesca e spagnola fa il pieno di migranti e poi, appellandosi alla legge del mare, li consegna nei porti italiani. Sempre sulla Stampa del 20 aprile, Gianni Riotta scrive: l'idea, popolare tra ingenui e demagoghi, che esista una magica bacchetta, accoglieteli a braccia aperte o risbatteteli in mare, è assurda. Gli emigranti partiranno ancora per anni e occorre una serie costante di misure, geopolitiche, umanitarie, sociali, economiche, culturali, militari, perché limitando le sofferenze non si cade in guerre aperte e genocidi. I numeri sono noti e feroci. Il mare delle nostre vacanze ha visto affogare nel 2016 oltre 5.000 esseri umani, 170.000 si sono messi in viaggio dalla Libia all'Italia e il 2017 non sarà diverso. Servono riforme pazienti, lo sviluppo in Africa, tecnologie, la riduzione dei pingui dazi dell'Unione Europea che soffocano l'agricoltura subsahariana, contrasto a guerre e dittature avide. E servono interventi immediati. Un Frontex, la prima linea di intervento europeo, con 250 milioni di budget e centinaia di addetti, più flessibile. Una politica dell'Unione Europea, scevra da dispute di valico e più cosciente di un sostegno non ipocrita all'Italia. Ciascuno deve fare il proprio dovere. Invadersi a vicenda il campo di fonde caos, non ragione. Bene fa Papa Francesco a ripetere l'appello evangelico alla carità, ma un governo ha, purtroppo, l'obbligo di agire secondo a Cesare quel che è di Cesare. E chi aprisse i confini spensierato verrebbe travolto dalla popolazione infuriata. Le misure del premier Gentiloni e del ministro Minniti ricordano che anche la sicurezza è diritto civile e temere di perderlo genera odio. Polizia, marina, guardia costiera devono assicurare che l'ancestrale legge del mare salvi i naufraghi, ma non possono, sole, fronteggiare l'emergenza politica. Le organizzazioni umanitarie, ONG, devono, per sussidiarietà, intervenire laddove il pubblico non arriva, aggiungendo tenerezza e calore, come sanno bene fare. Illudersi di risolvere ciascuno da sé una migrazione epocale seminerà zizzania, confusione, ulteriori dolori agli sfortunati, aizzando reazioni populiste prima, razziste poi. Frontex, come documentato dal Financial Times, già da mesi teme che ONG di fama o meno celebri ed efficienti stiano concorrendo con una campagna fai da te di intervento sulle barcacce dei trafficanti libici ad aggravare il problema. Il racket spingerebbe in mare i disperati, puntando sul soccorso dei volontari, e ci sono accuse contestate di fondi esagerati, chiamate al cellulare non limpide, poca trasparenza. Una delle migliori organizzazioni, la storica Save the Children, ha respinto gli addebiti tramite la dirigente Aurélie Ponthieu. Altri gruppi sembrano ancora intenti alla campagna Fai da te, che Frontex, magistratura italiana e fonti ONU ritengono non utile, perché non contrasta il racket, non affonda i barconi, non controlla infiltrazioni possibili di malavita e terrorismo. In alcuni casi pare istruisca gli immigrati a non collaborare con le autorità. Salvare vite umane è precetto comune a fede, etica civile, legge. Ma questa non è stagione da cavalieri solitari. La tragedia in corso è troppo grande perché ci si possa arrogare di risolverla in proprio. Serve oggi un passo di ragione da parte di tutti, con il coordinamento chiaro di governi, militari, ONG e organizzazioni umanitarie, che attribuisca di intesa comune a ciascuno un ruolo preciso. È la soluzione più razionale, più seria ed efficace, quella che salverà più vite. L'alternativa, la pirateria a fin di bene, darà un effimero brivido di eroismo, ma intralciando, sia pure a fin di bene, i soccorsi nel Mediterraneo e diffondendo, boomerang velenoso, rancore e risentimento contro i dannati del mare. E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Gianni Riotta, I sospetti sulla nuova pirateria, dalla Stampa del 20 aprile. Mentre in Europa ogni tentativo di proibire il velo nei luoghi pubblici o negli ambienti di lavoro finisce per scatenare polemiche o interventi della Corte europea, c'è un paese islamico dove il premier considera il velo un ostacolo alla modernizzazione. È il Marocco, dove il nuovo premier El Othmani sta cercando di rivoluzionare politica e costumi. Come scrive Luigi Guelpa, inviato a Rabat per il giornale, Othmani ha recentemente dichiarato: «Il jihad è una malattia mentale e sono convinto che si possa curare esattamente come si fa con le altre patologie, somministrando farmaci». La dura e soprattutto mai nascosta presa di posizione del nuovo premier contro il jihad l'ha portato a godere di consensi trasversali nella politica marocchina, persino tra le file dell'opposizione. Su di lui mai un pettegolezzo, mai una caduta di stile. È sposato e padre di 3 figli. Considera il velo un ostacolo alla modernizzazione del Marocco ed è stato tra i firmatari del documento che ha portato a gennaio alla conversione di tutte le aziende di tessuti che producevano il tristemente celebre burqa. Sulla questione velo le sue parole sono andate di traverso a parecchi imam intransigenti. «Sto soltanto cercando di far capire che si può essere buoni musulmani senza vivere all'età della pietra come vorrebbero i jihadisti, da noi o i talebani in Medio Oriente, e che una donna può essere rispettosa della religione, indossando un tailleur o un paio di jeans, abbandonando il velo. Il lavoro che attende El Othmani non è certo semplice. Dovrà cercare ogni giorno di innescare i benefici di una democrazia laica e liberale, facendo leva sui tanti giovani che in Marocco chiedono importanti cambiamenti. La modernizzazione e l'aumento dell'iniziativa privata sono la miglior risposta al fervore islamico. Quello che manca lo si colma con l'entusiasmo che non deve mai venir meno, ricorda. I miei collaboratori e io ci rimboccheremo le maniche. Sappiamo che non sarà facile. Il percorso è esteso e tortuoso, ma porteremo avanti le istanze della gente. Alla fine tutti chiedono le stesse cose: innovazioni e capacità nello sradicare i vecchi interessi politici, senza la necessità di farlo con le rivolte di piazza, ma in maniera costruttiva. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di Luigi Guelpa, Il paese islamico in controtendenza, dove le donne sono protagoniste, da Il Giornale del 14 aprile.